ritrovati con questo appuntamento che si rinnova ogni primo sabato del mese, queste conversazioni che, avendo di mira il trattare della vita eterna, sono giunte da alcune puntate ormai a parlare del paradiso. Rischierebbe, l'abbiamo già detto, di rimanere un discorso astratto se ci fermassimo alle semplici definizioni di che cos'è il paradiso e non provassimo a immaginare cosa comporterà per la nostra vita di anime beate prima e poi di persone risorte dopo e per l'eternità l'essere nella gloria di Dio. Allora questa sera vorrei provare a rispondere a questa domanda: che cosa faremo in paradiso per dare più sostanza, più concretezza alla nostra idea di salvezza e di vita eterna? E lo faccio partendo da un'esigenza, quella che spesso mi viene posta dalle tante persone che incontro, che di fronte alle vicissitudini della vita, all'esperienza del dolore, della sofferenza, della malattia, financo della morte, si trovano spesso a rammaricarsi di dover consegnare le persone più care a un destino eterno in cui spesso si dice di credere, ma che forse non si conosce abbastanza. E credo proprio che il non conoscere a sufficienza quello che aspetta le anime e poi le persone dei risorti nella comunione con Dio, nella vita eterna, così come la si definisce, sia la ragione per cui sovente ci si rammarica della conclusione di un pellegrinaggio terreno che in realtà è l'inizio di qualcosa di migliore, di qualcosa di talmente grande che la mente umana non può concepire, non può immaginare. Tante volte è come se dovessimo immaginare di aver accompagnato lungo un viaggio una persona cara che finalmente giunge a destinazione. E dovremmo immaginare la bellezza di quello che questa persona incontra per avere più motivi per lasciarla andare di quanti non avremo per trattenerla. La metafora è immediatamente comprensibile. Per arrivare a rispondere allora a questa domanda, che cosa faremo in paradiso? Che cos'è esattamente il paradiso? Voglio partire da una definizione del paradiso che spesso viene indicato come vita beata. In fondo le beatitudini raccontano la vita dei santi, coloro che sono miti, coloro che sono operatori di pace, coloro che sono misericordiosi, sono i santi. Questo manifesto di santità dice le virtù, siamo nel capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, di coloro che in un domani saranno con Dio nella gloria eterna. Sono beati perché godono di una vita beata. Questo è il paradiso. Usare questa espressione vita beata vuol dire proprio che saremo nella gioia piena, nella felicità più totale, con una soddisfazione mai raggiunta prima dei desideri più intimi del nostro cuore. Potremmo proprio dire così: il paradiso è la gioia, ovviamente intendendo la gioia che un'anima prova quando si unisce a Dio, quel Dio che l'ha creata, quel Dio per cui è fatta, quel Dio che l'ha attesa fin dal principio. Quindi non possiamo dire semplicemente la gioia di ritrovare i propri cari. Questo è un punto che ho affrontato tante volte, cari amici, quando dico nelle catechesi sulla vita eterna, per suscitare un po' di interesse nel pubblico. È sufficiente partire dicendo: tutti abbiamo in mente almeno una persona cara che non è più viva accanto a noi sulla terra e non vediamo l'ora di rincontrarla in paradiso. E questo suscita ovviamente l'interesse, umanamente più che comprensibile e condivisibile, di quanti piangono o ricordano con commozione qualche parente, qualche amico, qualche familiare che non è più presente accanto a loro. Pochi, devo dire la verità, sono quelli che anzitutto pensano alla bellezza di incontrare Gesù, alla bellezza di incontrare Dio. Bene, la gioia dell'incontro con Dio è infinitamente più grande della gioia che proveremo, pur grande, nel ritrovare i nostri cari. Ecco, anche la Regina della Pace, in un suo messaggio del 25 maggio 1991, conferma che l'essenza del paradiso è la gioia. Cari figli, io sono con voi per aiutarvi e per condurvi al cielo. In cielo c'è la gioia. Attraverso di essa potete già vivere il cielo fin da ora. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Diciamo che se l'essenza del paradiso è la gioia, l'esperienza che umanamente ci è data di provare gioia, felicità, serenità, pace del cuore è un anticipo di quello che sarà poi il paradiso, ovviamente con una differenza di grado e di sostanza significativa. In paradiso, inoltre, non si tratta tanto di una felicità individuale, bensì comunitaria, universale, condivisa, come ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1026, quando afferma: con la sua morte e la sua resurrezione, Gesù Cristo ci ha aperto il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo, ecco la definizione che aspettavamo, è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui. Quindi non è semplicemente la beatitudine del singolo, considerato come un individuo, una monade, bensì del singolo inserito in una trama di relazioni. E sappiamo che sarà la Chiesa trionfante che si unirà nella gloria al capo che è Cristo. Certo, dinanzi alla prospettiva di una gioia così, non bisognerebbe tralasciare neppure un'occasione per essere pronti e anelare dal profondo a questa felicità che il mondo non può dare, per quanto il mondo può blandire il nostro interesse con offerte illusorie e tentazioni spesso letali. Insomma, è facile camminare sulla strada sbagliata se diamo retta al mondo, scegliendo di vivere secondo i piaceri della terra piuttosto che puntare gli occhi e il cuore al cielo. L'immagine della strada è fondamentale e Gesù stesso la riprende nel Vangelo, ad esempio al capitolo 7 di Matteo, quando esorta: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Questa è un'immagine che conosciamo bene. La via angusta, la porta stretta. Si tratta di prepararsi per fare fatica, per conquistare questa beatitudine promessa dal Signore. Ma cosa vuol dire passare per la via stretta? Vuol dire proprio di non temere di affrontare qualche sacrificio, di spogliarsi di qualche carico ingombrante, perché se la porta è stretta bisogna cercare di passare assottigliando il più possibile il proprio bagaglio, allora magari lasciare qualche bene materiale, qualche piacere, ma soprattutto i vizi, i pregiudizi, le paure, i peccati, e per camminare più leggeri e più spediti verso il paradiso. Certo, la vita su questa terra non è sempre facile, ma non deve essere il timore di qualche spina che ci impedisce di godere il profumo delle rose che il Signore prepara per noi in paradiso. Non dovremmo mai cercare, di fare di questa vita quella totale assenza di preoccupazioni o sofferenze che sarà invece il paradiso. E in merito alla gioia che proveremo in paradiso, dobbiamo anche dire che quella vera felicità, quella piena beatitudine, vale sacrifici, sofferenze e difficoltà lungo la vita terrena. Questo ci viene confermato anche da un'apparizione mariana che forse è una delle più famose al mondo, quella di Lourdes, quando, apparendo nel 1858 a Bernadette Soubirous, la Vergine le dice: non prometto di farti felice in questo mondo, ma nell'altro. Questa è una promessa che farebbe forse storcere un po' il naso a chi non ha una fede robusta, a chi punta tutto sul qui e ora, adesso e subito. E invece, se guardiamo a queste parole, sono una promessa meravigliosa, perché dicono: guarda che in cielo sarai felice. Qualcuno poi traduce specificando che in realtà avrebbe voluto dire: non ti farò felice come si è felici in questo mondo, ma come nell'altro. Cioè ti darò un indizio di quella beatitudine che ti aspetta. È chiaro che dinanzi a una simile promessa, chiunque si sente spronato a sopportare con più disponibilità il quotidiano che porta fatiche, contrarietà, in vista della beatitudine futura. In fondo si può essere confermati dalla serenità e fermezza che la stessa Bernadette, la veggente di Lourdes, ha sempre dimostrato in mezzo a tutte le difficoltà e le sofferenze che la vita le ha riservato dopo il periodo della notorietà, durante le apparizioni, quando ha portato con pazienza la croce della malattia e le sofferenze che l'hanno uccisa ad appena 35 anni. Una conferma di quanto sia vera la promessa appena citata: ti farò felice non in questo mondo ma nell'altro. Io l'ho avuta proprio di persona quando alcuni anni fa mi sono recato per la prima volta a Nevers, dove Bernadette ha condotto la sua esistenza di religiosa fino alla morte. E là c'è una cappella molto ampia che custodisce proprio il corpo della santa sotto un'urna di vetro. E perché in un'urna di vetro? Per mostrare quello che è un vero e proprio prodigio a tutti i visitatori e i pellegrini. Perché è un corpo perfettamente incorrotto. Pensate, la prima volta che è stato esumato, la prima volta che hanno fatto l'esumazione della salma era il 1909, 30 anni dalla morte di Bernadette. E le cronache riportano la notizia che a questa esumazione assistono proprio alcune suore che avevano visto morire Bernadette. Ebbene, alla vista di quel corpo integro, ma soprattutto vedendo quel volto fresco, luminoso, sorridente a 30 anni dalla morte, alcune delle suore che avevano conosciuto Bernadette di persona sono svenute per l'emozione. Poi sono state fatte altre esumazioni successive, persino un'autopsia che ha confermato lo stato di conservazione perfetto di tutti gli organi interni, compreso il fegato. E questo è un particolare importante perché il fegato di solito è l'organo che si decompone a brevissima distanza dalla morte. Ecco, io quando mi sono trovato di fronte a questo corpo, a quella salma, a quel sorriso, mi sono chiesto: ma perché un tale prodigio? Io credo che la risposta stia proprio nel sorriso di Bernadette. È un sorriso che illumina il volto coperto oggigiorno da una leggerissima pellicola cerata. Quel sorriso ha un valore grande per noi oggi perché è la fotografia del momento che possiamo quasi vedere in presa diretta ancora oggi, in cui la santa, terminando la propria esistenza terrena, sta per entrare nella gloria del cielo e non può che sorridere e gioire al pensiero della beatitudine che l'attende, oppure guardando dinanzi a sé la Madonna e Gesù che sono venuti a prenderla. Ecco, quando la vita ci sembra troppo dura e dubitiamo della gioia che viene preparata per noi in paradiso, io credo che dovremmo guardare quel volto angelico, sorridente, per ricordare qual è il destino che ci aspetta. Penso che sia stato proprio un dono prezioso che è stato fatto in Bernadette, ma anche in tanti altri santi, ma forse anche i santi di casa nostra. Chissà quanti nostri parenti hanno potuto vivere un momento così. Ricordo anni fa, in un paese del Monferrato, stava per morire una delle suore più anziane della casa religiosa di quel paese, e andandola a trovare un'amica, questa era una suora ormai novantenne, e questa amica le disse: mi raccomando, cioè, quando sarai di là, vai a portare i saluti a mio marito. E questa era rimasta vedova. E questa suorina tranquilla, che l'aveva proprio rassicurata: non preoccuparti, che dopo che avrò salutato Gesù porterò i saluti anche a tuo marito. E questa cosa mi ha sempre colpito perché nella drammaticità del momento non ci poteva essere spazio per frasi fatte. E a me viene da dire a volte che si muore come si è vissuto, e dico anche che un uomo lo si conosce solo alla fine: da come muore si capisce come ha vissuto. E da come quella suorina, in fin di vita, rassicurava la donna che era andata a trovarla al suo capezzale dicendo: saluterò tuo marito, si capisce che ci credeva davvero. Ecco, ma allora questo paradiso a cui dobbiamo pensare sapendo che è la meta di quel viaggio che è la vita, ma che è anche l'antidoto a tutti i pensieri di tristezza, scoraggiamento, a volte disperazione che assalgono le persone che durante il cammino della vita affrontano prove grandi e difficili, dove è comprensibile un momento di smarrimento, ma non è accettabile la disperazione. Perché un cristiano che cammina verso il paradiso la speranza non la può perdere. Cristo è la nostra speranza. È lui che ci ha assicurato nel capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, vado a prepararvi un posto. Allora, se ci preparo un posto, dobbiamo chiederci come sarà questo paradiso. Ma davvero vale la pena di rinunciare a qualche anno di vita terrena, a qualche piccola gioia, a qualche soddisfazione terrena, pur di andare in paradiso? Beh, chi conosce il Signore, chi ha fatto di Gesù il primo sposo, il primo amore della propria vita, sa che non si può resistere. Io mi lamento a volte un po' con qualche suorina anziana quando mi dice: spero di vivere ancora a lungo. Dico: ma sorella, insomma, ma non siete la sposa di Gesù? E una sposa non dovrebbe bramare dal desiderio di ritrovare quanto prima il proprio sposo? Sembra che un attaccamento così radicato alla vita terrena, per quanto umanamente comprensibile, forse non sia la miglior risposta d'amore da dare al proprio diletto. Allora, uno potrebbe dire: va bene, mettiamo che il paradiso sia la meta da desiderare e di più in assoluto, ma poi in concreto che cosa si fa in paradiso? E insomma, Diego, hai detto è la vita beata, ma in cosa consiste? Che cosa si fa? Questa è una domanda ricorrente e spesso si associa quasi a una sorta di timore che in paradiso ci si possa annoiare. Qui forse vengono in mente i ricordi scolastici. Quando abbiamo studiato Dante, la Divina Commedia, tutti ricordiamo quanto fosse emozionante e coinvolgente l'inferno e quanto magari fosse un pochino più difficile da penetrare nel suo mistero letterario, teologico e poetico, il paradiso. Allora, possiamo fugare alcuni dubbi ricorrendo, come sempre, al magistero e poi anche all'insegnamento della tradizione. Anzitutto in cielo avremo finalmente la possibilità di contemplare Dio. Ce lo ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1028. A motivo della sua trascendenza, Dio non può essere visto qual è se non quando egli stesso apre il suo mistero alla contemplazione immediata dell'uomo e gliene dona la capacità. E questa contemplazione di Dio nella sua gloria celeste è chiamata dalla Chiesa la visione beatifica. Quindi cosa vuol dire che il paradiso è la vita beata? Che c'è la visione beatifica di Dio, cioè la contemplazione della Santissima Trinità. Questa sarà la tua gloria e la tua felicità, scrive San Cipriano di Cartagine, essere ammesso a vedere Dio, avere l'onore di partecipare alle gioie della salvezza e della luce eterna insieme con Cristo, il Signore tuo Dio, godere nel regno dei cieli insieme con i giusti, gli amici di Dio, le gioie dell'immortalità raggiunta. Ecco, questa contemplazione di Dio è la prima attività dei beati. Capisco che parlare di attività e di contemplazione sembra forse quasi un po' un ossimoro, una contraddizione, ma non è proprio così, perché noi ricorriamo a parole umane che non potranno mai descrivere in pienezza le realtà soprannaturali. Non ci può essere una narrazione adeguata del paradiso. Eppure contemplazione indica qualcosa di molto più concreto, vitale di quanto noi possiamo immaginare. Pensate a quando due innamorati si trovano uno di fronte all'altro, si fissano negli occhi, uno alla presenza dell'altro e non serve che facciano alcunché se non stare davanti alla persona amata. Ecco, con questa immagine, ma pensando a un'intensità infinitamente superiore, dobbiamo pensare che in cielo accadrà la stessa cosa. Potremmo godere appieno della presenza, dell'amore e della santità di Dio. Quindi la contemplazione è proprio un godimento di una presenza e come tale implica l'impegno di tutte le proprie risorse, di tutta la propria persona. Qui credo si possa ritornare ancora una volta sul tema della gioia che questa visione beatifica produrrà nel cuore dell'uomo. Infatti, beatifico vuol dire qualcosa che rende beato, cioè che rende felice. Gesù stesso ci ha indicato la via per giungere a questa gioia. È il capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni. Gesù dice in maniera molto diretta: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E chi non vorrebbe la gioia piena? Ma questa gioia piena, che è il paradiso, si prepara con quella gioia che poco poco si pregusta nel cammino terreno, camminando secondo la legge di Dio, che è una parola di vita, quindi osservando i comandamenti. Insomma, osservare i comandamenti è la strada per giungere alla gioia promessa da Gesù, una gioia che è definita piena, cioè totale, vera, a differenza di quelle parziali e provvisorie che il mondo ci offre. Ma oltre alla contemplazione, cosa si fa? È il numero 1029 del Catechismo che lo spiega. Oltre alla contemplazione, nella gloria del cielo, i beati continuano a compiere con gioia la volontà di Dio in rapporto agli altri uomini e all'intera creazione. Regnano già con Cristo. Con Lui regneranno nei secoli dei secoli. Questa è una precisazione importante. Le anime beate non si limitano a contemplare Dio, ma compiono la sua volontà. Indica un agire, è una condizione di vita attiva, ben diversa da quella immobile e apparentemente statica che siamo sovente tentati di ricondurre alla contemplazione paradisiaca. È chiaro, sarà un agire non nei termini di azioni materiali e finite, come quelle che contraddistinguono il nostro cammino terreno, ma secondo una dimensione eterna di amore, di preghiera. Ancora, se le anime vivono in comunione con Dio, esse sperimentano anche una profonda unione con gli altri beati. Ancora una volta, ricorro al Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 1045, che afferma per l'uomo questo compimento, il compimento della vita, della felicità, sarà la realizzazione definitiva dell'unità del genere umano, voluta da Dio fin dalla creazione e di cui la Chiesa nella storia è come un sacramento. Coloro che saranno uniti a Cristo formeranno la comunità dei credenti, la città santa di Dio, la sposa dell'agnello. Essa non sarà più ferita dal peccato, dall'impurità, dall'amor proprio che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. E no, perché con la redenzione gli uomini redenti, purificati, diventano città santa di Dio. La visione beatifica nella quale Dio si manifesterà, afferma il Catechismo, in modo inesauribile agli eletti, sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di reciproca comunione. Ecco, questa visione beatifica favorisce la comunione tra gli eletti. Allora potremmo dire i tre elementi che caratterizzano la vita beata. Anzitutto si contempla Dio. Poi se ne compie la volontà, ad esempio gioendo per il luogo in cui si è. E poi terzo, si sviluppa una profonda comunione con gli altri beati. Questa è dunque la caratteristica della vita beata, sperimentare una comunione, una relazione di amore profondo con gli altri fratelli, vivendo una dimensione di totalità e di unità che ovviamente paiono impensabili se confrontate con la vita terrena che attualmente stiamo conducendo. E poi soprattutto pensate a quante divisioni sulla terra, quante preferenze, quanti particolarismi, quante opposizioni. In paradiso non sarà più così, perché nell'amore di Dio sapremo amare tutti allo stesso modo. E questo, cari amici, è un punto che pone una domanda importante, perché se sembra bello, ameremo tutti allo stesso modo, dall'altra si pone un problema. Ma allora in paradiso non ci saranno più differenze nei rapporti? Quindi ameremo gli sconosciuti come i nostri parenti stretti? E spesso dietro a questa domanda si nasconde un po' il timore di non amare abbastanza i propri cari. Come sarà la realtà concreta dei nostri rapporti con gli altri? Se contempleremo Dio, eseguiremo la sua volontà, saremo più in comunione con gli altri beati, però poi alla fine, guardando al nostro cammino terreno, sappiamo che la nostra vita, la nostra storia è fatta di incontri particolari, di relazioni specifiche, molto intense, alcune sanguigne proprio, no? Pensate al rapporto con la madre, col padre, come pensare di amare tutti allo stesso modo senza rischiare, di di cadere in una sorta di appiattimento generalizzato. Ecco, ma allora potremmo partire da un testo che spesso forse fonda un po' questo timore nell'uomo comune, il timore di non salvare le differenze, diciamo così. Lo troviamo nel capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo. È il brano della donna che sposa sette fratelli. Lo conosciamo, ma lo leggo per intero. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali affermano che non c'è resurrezione, e lo interrogarono. I Sadducei sono una delle fazioni che spesso rivestono il ruolo di oppositori di Gesù, e in particolare non credono alla resurrezione dai morti. E lo interrogarono: Maestro, Mosè ha detto, se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello. Questa è una legge del popolo ebraico dell'epoca che prevedeva che se una donna restava vedova, ci voleva una discendenza per questioni anche di eredità e possesso della terra. E quindi, se c'era un fratello che poteva farlo, prendeva in sposa questa vedova, generava un figlio, ma questo figlio, diciamo malamente così, avrebbe portato il cognome del precedente marito ormai defunto. Bene, c'erano tra noi sette fratelli. Il primo, appena sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo fratello. Così anche il secondo, il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, chiedono i Sadducei a Gesù, di quale dei sette essi sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta? Qui è chiaro che sono domande tendenziose, anche l'aneddoto è, direi, proprio iperbolico, perché pensare a una donna che rimane per 7 volte vedova, ma l'idea di mettere in difficoltà Gesù su questo punto, perché i Sadducei non credono alla resurrezione. E Gesù rispose loro: Voi vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Non conoscono le scritture perché le scritture dicono chiaramente come sarà il cielo e il paradiso, ma bisogna saperle leggere, saperle scrutare con profondità, con attenzione, con sapienza. E poi non conoscono la potenza di Dio. Dio è talmente potente che legge nei cuori, per cui Gesù sa che lo vogliono mettere alla prova per incastrarlo e non si lascia prendere nella trappola. Alla resurrezione, continua, infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli in cielo. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ora non è Dio dei morti, ma dei vivi. E udendo ciò la folla era sbalordita per la sua dottrina. Quindi bisogna dire che di fronte al tranello dei sette mariti per una donna, di chi sarà moglie, Gesù dice: No, guarda che non si prende più moglie in paradiso. In paradiso siamo di fronte al Padre che è uno solo, che è Dio, e siamo tutti fratelli e siamo tutti figli. È un episodio famoso, dicevo, uno dei tanti trabocchetti con cui gli oppositori di Gesù, potevano essere anche gli scribi o i farisei, in questo caso sono i Sadducei, tentano di mettere in difficoltà il figlio di Dio, che invece ne esce sempre rafforzato nella stima e nel credito che i presenti non potevano negargli, stupiti da tanta sapienza. Il caso è proprio semplice: se una donna resta vedova di sette fratelli, di quale sarà moglie in cielo? Ma Gesù risponde non dando una graduatoria, non risolve la domanda, fa capire che non è posta bene. In paradiso non ci sono né moglie né marito, ma si è come angeli. Alla luce di questa affermazione, non di rado mi capita di sentire delle obiezioni, ad esempio, ma se la vita del paradiso è un tale appiattimento di rapporti per cui non ci sono più distinzioni, meglio la vita terrena, dove almeno sì, posso amare tutti, ma amo in particolare gli amici, i fratelli di sangue o la propria moglie. È un amore diverso, se ne ha consapevolezza, lo si cerca diverso. L'errore che sta a monte di questa interpretazione consiste nel credere che in cielo i rapporti si livelleranno verso il basso. Questo è quello il timore, no? Per cui si cercano un po' di modificare i caratteri della situazione e immaginarla secondo la propria misura terrena. invece di comprendere che sì, ci sarà un mutamento di ogni relazione, ma sarà verso l'alto, perché nell'amore di Dio amaremo tutti ugualmente e perfettamente, ovviamente secondo la perfezione, diremmo quod nos, secondo noi, propria delle creature. Ora, amare tutti perfettamente non vuol dire indistintamente, perché ogni individuo, l'abbiamo già ricordato, in paradiso conserva la propria identità, la propria storia e ogni avvenimento, ogni relazione particolare, per cui si amerà ciascuno in modo uguale come intensità e distinto come modalità. Proviamo a immaginare no? Questa donna di cui si parlava nel brano del Vangelo secondo Matteo, che ho appena ricordato, al capitolo 22, quando si dice ha sposato sette uomini, sono morti tutti, di chi sarà moglie? E Gesù dice, ma non si prende più né moglie né marito in paradiso, no? E beh, uno potrebbe dire, in fondo, la donna di cui si parla amerà quelli che sono stati i suoi mariti con la stessa intensità, ma in modo diverso, perché avrà piena coscienza dello specifico legame che è intercorso con ogni individualità, dunque diversificando anche l'amore per ciascuno di essi. Ti do la stessa quantità di amore, fatemi passare questa espressione, ma di una qualità diversa. È un po' come se una mamma avesse sette figli. Si potrebbe dire che ne ama uno più dell'altro, ovviamente no. Li ama tutti con la stessa intensità, ma questo non significa che non li possa amare uno a uno in modo diverso, a seconda delle caratteristiche, dei bisogni e delle personalità di ciascuno. Ecco, allora, in questo contesto è chiaro che la vita beata, risulta, come si può dire, un appagamento del bisogno di amare che l'uomo ha, che va ben al di là della veduta terrena. Se giudico il paradiso con il metro dello spettatore terreno, è chiaro che me ne sfugge l'essenza. L'essenza è quella di creare comunione con gli altri beati, ma non potrebbe essere diversamente. Se pensiamo che la Santissima Trinità è comunione d'amore in primis, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo intrecciano queste relazioni d'amore. E spesso si dice che in fondo la terza persona, lo Spirito Santo, che cos'è se non l'amore, la carità profonda che unisce il Padre al Figlio generato dall'eternità? Ma in questo contesto di preferenza e direi proprio di posto prioritario che si deve riconoscere a Dio, ci sono poi anche tutte le altre anime che si troveranno salve e dovendo essere capaci di costruire comunione, ci sarà chiaramente l'interesse e il desiderio a intessere rapporti anche con questi. Ma questo intessere rapporti di comunione, che è una terza caratteristica del paradiso come vita beata, no? Se ricordate, l'abbiamo detto poc'anzi, si contempla Dio, se ne compie la volontà, gioendo per dove si è giunti. Qui è chiaro che la teologia riconosce un diverso grado di beatificazione senza che però Dio faccia preferenze di persone. È un po' come dire, sono tutte bottiglie piene, ma hanno capienza diversa. E poi c'è il modo di sperimentare la gioia della comunione con i fratelli. Ma in tutto questo noi potremmo dire, eh sì, ma i rapporti speciali che fine fanno? Quella persona che ho amato, in modo così particolare, quella persona che ho atteso, è possibile che scompaia tutto. Abbiamo detto che per la singola persona mantenere la propria identità è decisivo, perché in paradiso non voglio essere da solo, in paradiso voglio poter ritrovare le persone che ho amato, voglio poter riconoscere quanto grande è l'amore di Dio, ad esempio ricordandomi proprio le mie traversie esistenziali. In paradiso non saremo angeli senza memoria, senza storia o senza identità. Saremo anime e poi persone risorte con una storia precisa e soprattutto un bagaglio di esperienze, di ricordi, di rapporti, di intrecci, di relazioni. Ecco, in tutto questo è normale che si abbia anche il desiderio, la curiosità di incontrare i propri cari. Ma questo incontro avviene, come si può dire, nella novità di un cambiamento di prospettiva. Perché l'amore grande che ho portato a coloro che hanno fatto parte della mia quotidianità non dovrà essere livellato verso il basso per non fare differenze, no? Quasi che fossimo in qualche democrazia popolare della guerra fredda. No, non è così. Tutto verrà livellato, se volete usare questo termine, verso l'alto. Si ameranno molto di più coloro che sono degli sconosciuti, perfetti sconosciuti, adesso che non quando c'era invece una realtà di differenziazione di rapporti durante il cammino terreno. Allora, in questo innalzamento dei rapporti, beh, paradossalmente dovremmo essere noi stessi a desiderare il paradiso come opportunità per amare di più coloro che già adesso stiamo amando in maniera imperfetta. Ed ecco che allora comprendiamo il perché del parlare del paradiso come vita beata, delle attività del paradiso come contemplazione, gioire della volontà di Dio, riuscire a stringere rapporti di comunione con i fratelli e in ultimo arrivare a dire proprio che in queste attività che si vanno compiendo un aspetto particolare riguarda i rapporti con i propri cari, che saranno innalzati tutti allo stesso altissimo livello, ma essendo sempre rapporti tra individualità diverse. Qui non c'è spazio per nessuna concessione filobuddista al perdersi come gocce d'acqua in un mare che annulla tutte le differenze. Le differenze rimangono. Cristo si è incarnato assumendo la natura umana in unione ipostatica a quella divina, ma corpo e anima dell'uomo hanno camminato sulla terra in un certo momento, in un certo luogo. Quindi c'erano delle differenze, le peculiarità. Pensate all'uomo della sindone, Gesù che manifesta il volto di amore del Padre ha un volto ben preciso, un volto storico. E di fronte a questo volto uno potrebbe dire: ma anche Gesù avrà avuto i suoi rapporti di preferenza durante la vita, avrà avuto anche, non so, dei momenti in cui qualcuno si sentiva amato di più, qualcuno di meno. Pensate al caso di Pietro e di Giovanni, no? Pietro è sicuramente quello che ha amato di più Gesù nella sua irruenza, a volte superficiale, no? Darò la mia vita per te. Poi, dopo poco, era lì che tradiva e rinnegava 3 volte il maestro. Giovanni, invece, è stato il discepolo amato. Ma chi è amato è colui che sa ricevere ancor prima che non dare. È una prospettiva, ovviamente, che va ritenuta complementaria, ma dice un po' le differenze che nell'ambito terreno ci potevano essere. In paradiso non ci saranno più. E questo anelito al cielo non può essere dettato soltanto da un desiderio di amore democratico, amore uguale per tutti, perché, lo ripeto, non è un amore in basso, in abbassamento, ma un amore che viene innalzato, cioè si creano proprio degli innalzamenti, delle purificazioni che permettono di amare di più e meglio. Allora immaginate. Parlo con tutti coloro che sono in questo momento all'ascolto e hanno nella famiglia, tra gli amici, tra i conoscenti, delle esperienze di sofferenza in corso, di malattia, magari di lutto. Ecco, io a tutti voi voglio dire, facciamo nostra questa grande verità che abbiamo ascoltato questa sera del paradiso come vita beata, come gioia piena, come meta per la quale siamo fatti come anime. Ma cerchiamo di fare nostra questa verità desiderando di viverla in pienezza. Solo così tutto quello che ci sta accadendo lungo il cammino della vita sapremo come collocarlo. Un autore ecclesiastico dice che bisogna aver ben ferma una verità, che ogni tribolazione è occasione di perfezione. Questo è importante, eh? Ogni tribolazione occasione di perfezione. È come dire, se Dio permette certe prove, certe tentazioni, è solo perché attraverso di esse è possibile santificarsi. Pensate come cambierebbe lo sguardo sui nostri cari che sono malati. Se stessimo vicino ai nostri cari che sono malati e che magari sanno che stanno avanzando lentamente verso il termine del pellegrinaggio terreno che è la loro vita, se pensassimo, ma forse con questa malattia il Signore sta purificando quest'anima, forse con questa malattia il Signore sta dando un aiuto, allora non devo temere, il Signore sa cos'è del futuro delle vite delle persone, prima ancora che queste anche soltanto immaginino co cosa vorrebbero fare. Quindi forse non fa un miracolo in quel momento, in quel cammino di vita, in quel percorso, perché sa che è il momento migliore per quell'anima per incontrarlo. Oppure potremmo pensare, ma se davvero c'è il paradiso come vita beata, ma allora guadagnati la grazia di poter andare subito in paradiso. Guadagnati la grazia di poter evitare il purgatorio. E per fare questo vuol dire essere anche un po' disposti a soffrire. Avevo un caro padre spirituale, un santo sacerdote esorcista, che diceva, l'unica grazia che bisogna davvero chiedere, bisogna, è quella di non fare il purgatorio e andare direttamente in paradiso. E come si fa? Non bisogna cercare, diceva lui, delle prove, dei sacrifici in più, ma essere disposti con paziente sopportazione ad accogliere tutte le prove che già la vita ci riserva. Se facessimo così, ci renderemmo conto di quanto facile è poter andare direttamente in paradiso dopo la nostra morte. Ecco, per quanto riguarda quindi il paradiso come vita beata, come contemplazione, come rapporti ugualmente innalzati verso l'alto con tutti i beati che saranno insieme con noi in paradiso, appunto, penso che può essere sufficiente per questa sera. Vi lascio con una breve pausa musicale nell'attesa di ritrovarci, cari amici, per le vostre domande che, come sempre, vi prego, siano brevi e in tema con quanto trattato. A più tardi. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Manetti. Mi chiamo Pierluigi, telefono da Merate, in provincia di Lecco. Io ho ascoltato attentamente la sua trasmissione e volevo esporre un mio pensiero, cioè c'è un passo della scrittura che dice che qui sulla terra nessuno può vedere Dio e rimanere vivo, no? Per cui penso che in paradiso ci sia la condizione di vedere Dio in uno stato di grazia, di gloria e di beatitudine, rimanendo vivi per l'eternità. La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie, grazie per questa domanda, è molto bella, difficile da potersi esaurire nel poco tempo a nostra disposizione, ma provo a dare qualche spunto. Nella scrittura più volte ricorre nell'Antico Testamento questa espressione, non si poteva vedere Dio senza morire. Era l'idea che Dio si potesse vedere soltanto dopo la morte, che la sua grandezza fosse così smisuratamente al di là della portata dell'uomo da non potersi raggiungere. Poi in realtà diciamo che Giacobbe lotta con l'angelo, ma al mattino dirà: ho visto Dio e sono rimasto vivo. Di Mosè si dice che conversava come un amico con Dio, parlando faccia a faccia, anche se poi in altri passaggi si dice che in realtà di Dio vide soltanto le spalle, un po' come Elia quando lo incontrò nella brezza leggera. Ancora possiamo ricordare dei 70 eletti che con Mosè salirono sul monte e videro Dio, ma però mangiarono e bevvero, cioè rimasero vivi. Alcuni casi sembrano poter dire che qualche anticipo di questa visione a grandi santi è stata riservata, ma l'idea è quella che solo in cielo potremo vedere Dio, come dice la prima lettera di San Giovanni, capitolo 3, versetto 2, lo vedremo così come egli è. Si parla nel Trattato della Beatitudine, nella teologia morale fondamentale, proprio della vita beata come fine ultimo dell'uomo, e quello è il contesto in cui più pienamente potremo possedere Dio, si dice proprio così, ma va inteso in senso teologico, non è un possesso che parte da una pretesa del soggetto umano, ma un dono che Dio liberamente farà all'uomo. Dio metterà l'uomo nella condizione di poter godere in pienezza della sua presenza, essendo ormai spogliato di tutti quei limiti che derivano da due parametri che contraddistinguono la nostra esistenza terrena. L'orizzonte terreno in sé, il fatto di essere cioè creature finite, transeunti, effimere, non ancora inserite nell'orizzonte della trascendenza e dell'immortalità eterna. Due, i limiti che derivano dal peccato. Per quanto il battesimo rimuova Il peccato originale ne restano le conseguenze e, come ricorda la scrittura e il Concilio di Trento ribadisce, anche il giusto pecca 7 volte al giorno. Da peccatori non riusciamo a vedere così nitidamente. Paolo, l'Apostolo, utilizza l'espressione del vedere come in uno specchio, ma quando saremo nella gloria, lo dice anche lui, lo vedremo così come egli è. Pronto? Buonasera, dottor Manetti. Mi chiamo Margherita, in provincia di Roma. Buonasera. Buonasera a lei. La seguo sempre molto, molto attentamente e volentieri. La mia domanda era un po' diversa, ma mi viene in mente proprio nella risposta che ha dato al signore Di Lecco. Quando a Gesù viene chiesto da Filippo, mostraci il Padre, no? E lui dice: ma come, Filippo? Siamo stati tanto tempo insieme, ancora non hai capito. Chi ha visto me ha visto il Padre. Beati gli apostoli che hanno incontrato il volto di Gesù e hanno conosciuto il volto di Dio, in realtà, no? L'amore grande che ha Dio. Ma la mia domanda era a proposito della gioia. La gioia terrena davvero è così rara, è così ineffabile, un attimino si prova e poi finisce. Io nella vita, quando mi guardo indietro, sono una signora di quasi 70 anni e ricordo di aver provato una gioia profonda che ancora ho nel cuore. Quando sono arrivata dalla Polonia con 2 bimbe adottate, e di notte, anziché dormire, mi mettevo al centro della loro cameretta, dove dormivano una a destra e l'altra a sinistra, e le contemplavo lungamente con un senso di gioia immensa e non mi annoiavo. A volte invece, quando penso al paradiso, no, e dico: ma ammesso che riesco a conquistarlo, e con le preghiere, con tanta difficoltà a pregare e a concentrarci, come diceva lei giustamente, ma non mi annoierò. Ma se poi questa gioia che lei ha cercato di spiegare equivale a quella meraviglia di contemplazione di un qualcosa come gli innamorati, ha fatto quell'esempio, penso di aver capito cosa può essere la gioia eterna, essere sempre innamorati di osservare quei volti meravigliosi di esseri superiori che ci hanno regalato tante belle cose su questa terra. L'ascolto per radio, dottor Manetti. Mi perdoni se non mi sono espressa bene, ma l'emozione c'è. La ringrazio. Cara Margherita, grazie, grazie a te per questo bellissimo intervento. Direi che ti sei espressa benissimo, ma soprattutto hai offerto degli spunti molto utili a me per primo, ma penso a tutti i nostri ascoltatori. È proprio vero che quando Gesù dice chi vede me vede il Padre, sta dicendo una grande verità. Gesù è il volto della misericordia, è il volto dell'amore di Dio. E chiaramente Filippo era lì che diceva: mostraci adesso il Padre. E quello che noi possiamo vedere adesso di Dio è proprio l'amore che Gesù ha manifestato. Vero, beati coloro che hanno camminato fianco a fianco con Gesù, ma mi piace sempre ricordare che il grande filosofo danese Kierkegaard affermava che questo privilegio lo può avere chiunque viva il rapporto con Cristo da contemporaneo. E se io oggi come oggi sento Gesù vivo e lo cerco come espressione d'amore nel fratello, riesco a scorgere una traccia di questo volto di Dio. E poi è proprio vero che nella contemplazione dell'amato si trova forse uno dei segni più evidenti di quello che può essere il nostro futuro nel paradiso. Le gioie terrene non sono assimilabili a quelle eterne, e perché anche in questo bellissimo episodio che ci ricordava Margherita, no? Contemplare i propri figli che dormono, che è una bellissima espressione della gioia che si può provare da genitori, eppure c'è un po' di nostalgia, perché si sa che questa gioia finirà. Quando viviamo una bella giornata, una bella ora, un bel momento, sappiamo che poi finirà. Allora non è tanto un problema di immaginarsi l'intensità infinitamente superiore della gioia che vivremo, ma è sufficiente dire sarà sicuramente meglio, perché sarà per sempre. Pronto? Buonasera, Buonasera. sono Andrea da Prato. Volevo farle una domanda e riguarda appunto alla via stretta, perché il Vangelo prosegue dicendo che sono pochi quelli che la trovano, e questa cosa qui sinceramente avrei bisogno di un chiarimento, perché come se dicesse che è una via che va trovata, non... ecco, riguardo a questo passo del Vangelo. Grazie, è una domanda molto pertinente. Il fatto di dover cercare questa via significa che questa via fa parte della stessa meta che siamo chiamati a raggiungere. Si parla di una via di salvezza che nel cristianesimo, a differenza di qualunque altra religione o filosofia di vita, non è tanto un metodo o un percorso, non è uno stile di vita, ma è una persona. Gesù dice che bisogna cercare questa via perché è lo stesso Gesù che nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, versetto 6, dice: Io sono la via, la verità e la vita. Bisogna cercare Lui. Bisogna capire che trovando Lui si capisce qual è la via per giungere nella vera vita. Che cosa ha fatto Gesù? Ha fatto vedere come si passa attraverso la porta stretta. La croce è la chiave che apre la porta che introduce nella vera vita. Gesù in un altro passo arriva a dire di se stesso: Io sono la porta, quando si presenta come buon pastore. È lui la via e anche la meta che conduce alla vera vita. La porta stretta parla di una spogliazione. Questa spogliazione dove raggiunge il suo vertice? In Gesù. Del quale San Paolo, nel bellissimo cantico cristologico, il capitolo 2 della lettera ai Filippesi, dice che Gesù non ha temuto di spogliarsi della sua natura divina per farsi simile agli uomini per compiere la redenzione. Allora, in questo trovare la via è implicito un ammonimento: bisogna cercare Gesù, che è la via, quella via stretta che immette però nella immensità della gloria, della comunione con la Santissima Trinità e della vita beata. Pronto? Buonasera, sono Maria da Catania. Senta, le volevo chiedere, diciamo, noi mortali praticamente facciamo celebrare sempre delle messe, diciamo, in suffragio dei nostri cari defunti, no? Queste messe che noi facciamo celebrare, di solito, diciamo, forse lo facciamo fare perché non abbiamo la certezza, diciamo, che i nostri possono, diciamo, trovarsi di fronte a Dio. Oppure, ecco, che non abbiamo la consapevolezza, diciamo, che loro, diciamo, praticamente abbiano, diciamo, nel loro percorso di vita, diciamo, avuto quella possibilità, diciamo, di preghiera, di incontro, per cui, diciamo, praticamente, le messe che noi facciamo, diciamo, hanno un aiuto, hanno che cosa, diciamo, ecco, cosa comportano, diciamo, in effetti. Bene, grazie, grazie per questa domanda, più che plausibile e lecita, perché se si parla della vita beata bisogna anche riuscire a capire come arrivarci. E sappiamo per tutto quello che abbiamo detto sul purgatorio che sovente anche chi ha vissuto nell'amicizia con Dio ed è morto in grazia, non ha però l'anima perfettamente purificata. Sono rimaste come delle tracce quelle che vengono chiamate colpe e sono ormai state perdonate perché si è chiesto perdono a Dio, ci si è riconciliati e magari anche confessati, ma forse in modo imperfetto. Allora sono rimaste delle pene. È un linguaggio un po' giuridico, a volte potrebbe un po' dispiacere. È meglio pensare all'anima che ha delle tracce di peccato dentro di sé che deve ancora purificarsi. Un esempio facile per comprendersi è pensare a una persona che decide di cambiare stile di vita alimentare e dice: da domani, non so, non mangio più dolci. Può smettere domani o anche adesso, immediatamente, non mangio più dolci, ma il suo organismo non è che risulta immediatamente purificato, sanificato, ci andrà del tempo per smaltire, magari, non so, il colesterolo in aggiunta e quant'altro. E allora possiamo dire anche l'anima ha lo stesso destino. La messa, quando viene applicata con l'intenzione, o anche partecipata, offrendo la comunione, come pure le indulgenze, no? Siamo nel tempo dell'ottavario dei defunti, quindi ha senso parlare anche di queste belle pratiche che la Chiesa, riserva per i suoi fedeli. È come se si attingesse a un grande tesoro. Il tesoro della Chiesa sono i meriti, anzitutto della passione e morte in croce di Cristo, ma poi anche i meriti della Vergine, di San Giuseppe, di tutti i santi, i beati, dei martiri. È come un tesoro di meriti che possono essere spesi, offerti e accolti per le singole anime. E noi non possiamo sapere se sono già in paradiso, perché effettivamente anche la Regina della Pace, in un messaggio dei primi anni a Medjugorje, ha detto che sono pochissime le anime che vanno direttamente in paradiso. Allora è bene suffragare le anime dei propri defunti con le messe. Nei funerali oggi si usa forse un po' spesso dire sicuramente già in paradiso, ma la Chiesa nelle sue orazioni funebri prega con molta più consapevolezza affinché l'anima possa presto essere accolta nella gloria del Padre. Quindi ben venga che si applichi una parte di questo tesoro di meriti, soprattutto con la Santa Messa, che è la forma di preghiera più alta per un cristiano, in favore di quest'anima. Se poi l'anima che dovesse essere indicata come beneficiaria è già nella gloria di Dio, sarà Dio a vedere quale altra anima bisognosa del purgatorio potrà fruire della grazia ad essa riservata. Ecco, io vedo, cari amici, che il tempo a nostra disposizione è ormai terminato, quindi penso di poter essere giunto al momento dei saluti, e anzitutto dico un grazie, perché anche questa sera conferma che una grande parte del merito di questa trasmissione sta proprio nelle vostre domande, quelle che riuscite a porre in diretta, ma anche a quelle che ricevo per email, e che stimolano poi i diversi contenuti affrontati mese per mese. Nel salutarvi, assicurarvi